vento, ormai accelerato, dalle sensazioni sempre più confuse, picchio la rinfusa contro l'aria che respiro, sento sotto il naso la polvere più marcia che io aspiro, parassiti succhiano il mio animo per trarne profitto, non esiste antidoto e rimango infetto, lotto con lo spettro di me stesso, sparpagliato a terra fra frammenti di uno specchio, l'essere non distingue il vuoto dallo spazio, le retine bruciate dal variare di correnti di colori e vado adagio, un plagio di pensieri crea disagio, colpi di pistola